Lumarcialo aro, oi dini sina vene, lumarcialo aro, oi dini sina vene, doi la puntana dali bella marinara, tagli si sobra. Oi cave vole la mamma, tagli si sobra. Oi cave vole la mamma, doi la, su giovene biagio morire mi fa. Come la vende, oi tati la dogana, come la vende. Oi tati la dogane doi la puntana doli bella marinara. Dai io la vindo a te carini lo parmo. Dai io la vindo a te carini lo parme doi la su giovene piaggio morire mi fa. Tati la mia, e non si vende da Parmo. Tati la mia, e non si vende da Parmo. Che io la cangio, e con battoni di donne. Che io la cangio, e con battoni di donne. Doi là. Tu giovane bello morire mi fa.